America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Notizie purtroppo non buone dalla Libia sul fronte militare, su quello politico-diplomatico e soprattutto su quello dei caduti sul campo. Due giornalisti, Tim Hetherington, un giornalista che ha avuto uno straordinario successo con un film che è stato candidato all'Oscar di quest'anno, e Chris Hondros, un giornalista americano che lavorava per l'agenzia fotografica Getty. Sono rimasti colpiti, erano insieme a dei colleghi a Misurata, si stavano avviando verso la linea del fuoco quando una granata esplosa all'improvviso, ha ferito tre di loro, due gravemente. Tim Hetherington è arrivato all'ospedale di Misurata praticamente morto, Chris Hondros è morto poco dopo, le sue ferite non erano curabili. Vi dicevo che la situazione è drammatica sul piano militare perché i ribelli non ce la fanno, c'è questa posizione di stallo fra i mercenari di Gheddafi e fra gli insorti, non si riesce ad andare avanti, la guerra civile, perché ormai di guerra civile si tratta, come purtroppo aveva minacciato lo stesso Gheddafi, non sta migliorando. Sul piano politico ci sono state delle iniziative di Francia, Gran Bretagna, Italia per cercare di mandare dei consiglieri militari sul campo ed aiutare dunque gli insorti in questo intreccio di sviluppi mediorientali. Abbiamo avuto una serie di altre notizie. La Siria è sempre più agitata. Il segretario di Stato Hillary Clinton, in un intervento che ha fatto ieri, ha attaccato il governo siriano per violenze contro gli insorti locali. Lo stesso segretario di Stato Hillary Clinton ha chiesto 25 milioni di dollari per la Libia per aiutare i civili. We are moving to authorize up to $25 million in non-lethal commodities and services to support the Transitional National Council. Avete sentito la voce di Hillary Clinton? Il segretario di Stato ha dominato la scena ieri. Barack Obama era in California, si è occupato di economia, di disavanzo, non si è occupato di Libia o di guerra, e soprattutto Hillary Clinton ha dovuto affrontare un nuovo problema che si pone nei confronti dell'amministrazione, e cioè l'invito da parte repubblicana al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a recarsi a Washington per una visita al Congresso. È un'iniziativa questa dei repubblicani, mette un po' nell'angolo il presidente Barack Obama. Hillary Clinton è rimasta spiazzata, l'ennesimo sviluppo, vi dicevo, di questo intreccio medio orientale in cui tutto sta capitando molto molto rapidamente. Ma questo è il quadro politico. Vorrei tornare un momento al dramma di questi due colleghi che sono rimasti uccisi ieri, perché erano due personaggi davvero molto importante. Il fotografo Chris Hondros, un americano di 41 anni che dal 1990 ha documentato i maggiori conflitti mondiali dal Kosovo, l'Angola, Sierra Leone, Libano, e poi, vi dicevo, Tim Hetherington, non solo un fotoreporter ma autore di un film, Restrepo, che è rimasto leggendario, ha vinto il Festival di Sundance l'anno scorso, è stato nominato per il premio Oscar quest'anno, quindi uno dei finalisti, è rimasto ucciso, vi dicevo, da questa granata a Misurata. This is the Southern Korngal. Deadliest place on earth, the Korngal Valley. We're not ready for this. Get the fuck over here! Avete sentito alcune sequenze del film Restrepo, un film che vi consiglio di vedere, un film drammatico, straordinariamente emozionante, perché si vede dal di dentro la vita di questi soldati al fronte in Afghanistan. Un film pieno di colori, di azione, di paura, racconta la vita di un plotone di soldati americani di stanza nella valle con Regal in Afghanistan, appunto, ed è girato in questo avamposto Restrepo costruito sul cucuzzolo di un grande colle. Prende il nome da un medico del plotone che è stato ucciso in guerra. In questo avamposto ci sono 15 uomini ed è considerato uno degli avamposti più pericolosi per la guerra in Afghanistan. Vi dicevo, ci sono dei colori molto belli, delle scene molto intense, soldati che in momenti di pausa suonano la chitarra, guardano le foto dei loro figli, parlano con i loro genitori. Insomma, un film, devo dire, violento, drammatico, ma allo stesso tempo di grandi emozioni. Ebbene, l'autore purtroppo ha superato un anno in Afghanistan, considerato sicuramente il fronte più difficile, più pericoloso in guerra quest'anno, è caduto in Libia, dove questo incidente non sarebbe dovuto accadere. E di nuovo la NATO è sotto attacco. Perché la NATO non interviene con maggiore determinazione? Se ci fosse stato un intervento prima, più deciso, invece di tergiversare come è successo negli ultimi tempi, forse Hetherington sarebbe ancora vivo, forse i ribelli sarebbero più forti, forse Gheddafi starebbe davvero pensando al suo esilio. I'm always thinking again of the wives and the loved ones back home here in America. You know, 50 million people are connected to soldiers and you know who have or currently serving in the military and the soldiers don't come home. Ecco, chi può pensare che un personaggio come Hetherington sia così un avventuriero improvvisato che va sul fronte per passione e per avventura si sbaglia di grosso. Era un uomo di straordinario equilibrio, era stato ammesso a una delle più prestigiose università del mondo, a Oxford, era nato a Liverpool. Ad Oxford, pensate, ha studiato letteratura e aveva 41 anni, ha collaborato per CNN, ha vissuto 8 anni nel West Africa, dove ha documentato soprattutto questioni politiche e sociali, in particolare del conflitto in Liberia. È stato l'unico fotoreporter a vivere dietro le linee ribelle durante la guerra civile della Liberia nel 2003 e ha girato un altro film, uscito, An Uncivil War, e un libro, Long Story, Bit by Bit. Per questo dedichiamo a lui un po' più di spazio, perché è stato un uomo davvero straordinario che con questi suoi interventi sui media, questi suoi documentari, queste sue straordinarie fotografie, ha davvero aperto, come dice lui stesso, una porta al grande pubblico. Sentiamolo. We've been war reporters for many, many years, and Afghanistan isn't the first war that we've reported on, you know, and our job is to go out and bring back those stories that act as a kind of a portal, a doorway for the audience, for the general public to kind of enter into the discussion. Sono un reporter di guerra da anni, quella in Afghanistan, dice, non è la prima guerra che documento, vado in questi posti con l'intenzione di raccontare quelle storie che possano servire al pubblico come porta d'ingresso per entrare nella discussione politica, per capire la complessità di queste guerre, come quella in Afghanistan e ora come quella in Libia. Thank you so much, Facebook, for hosting this, first of all. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. Vi dicevo che Barack Obama era in California, non si è occupato oggi di guerra, nonostante la situazione si sia leggermente complicata. Lo sentiamo mentre parla con Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Hanno fatto una diretta proprio su Facebook parlando con i dipendenti di questo grande social network, e questo è stato il debutto del presidente. Dice: salve, mi chiamo Barack Obama e sono quello che è riuscito a far mettere la cravatta a Mark Zuckerberg. Ecco, Obama parla di debito. Torniamo sulla questione del debito e del disavanzo, perché è una delle tematiche più importanti, soprattutto dopo il downgrading di Standard & Poor's, e sostiene che per poter andare avanti bisogna riformare il sistema fiscale in modo che gente come me, dice, e come te, Mark, dovrà pagare un po' più di tasse. E Zuckerberg risponde: well, I'm cool with that, a me va benissimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Moby ha annunciato l'uscita del suo nuovo album il 17 maggio, un disco intitolato Destroyed, e sarà accompagnato, pensate, da un libro fotografico che documenta l'ultimo tour di questo artista. In anteprima vi propongo di Moby, The Day. Da